Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Parigi è sempre Parigi e Berlino non è mai Berlino, ha esclamato nel 2001 Jack Lang, ex ministro della cultura francese, impressionato dalla rapidità con cui la città tedesca è abituata ad affrontare il cambiamento. Spavalda, risoluta, l'attuale capitale della Repubblica Federale di Germania ha saputo affrontare nel corso del Novecento mutamenti giganteschi ed è tuttora in continua evoluzione. Fino a poco tempo fa, nel cuore di Berlino, tra la celeberrima Alexanderplatz e la meno conosciuta Schlossplatz, si trovava un giardino al centro del quale, svettanti, campeggiavano le statue di due uomini che hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia degli ultimi due secoli. Eppure, per qualcuno, quelle due effigi bronzee pesano troppo, più metaforicamente che fisicamente, per restare al loro posto. La notizia è recente e ha fatto il giro dei principali quotidiani europei. Le statue dei due padri fondatori del comunismo andranno rimosse dalla loro sede, forse addirittura fatte sparire per sempre. Eppure non tutti i berlinesi sono d'accordo, si tratta pur sempre di un pezzo di storia cittadina e nazionale, per quanto doloroso e difficile da elaborare. Con delicatezza, solennità ed estrema precauzione, l'imponente colosso viene ora collocato sulla rampa di lancio. E la rampa di lancio è il palcoscenico privilegiato da cui ammirare questa realizzazione del lavoro collettivo. Oggi il motto "Il popolo lavora per il popolo" trova in questo straordinario manufatto la sua più nobile concretizzazione. Trasporre streci! Dichiaro, a nome dell'equipaggio internazionale della Soyuz 31, che siamo pronti all'inizio del conto alla rovescia. Il 26 agosto del 1978 il mio paese si copriva di gloria. Sigmund Jung, cittadino della Repubblica Democratica Tedesca, era il primo compatriota a volare nello spazio. Quello stesso giorno la mia famiglia sprofondava nel baratro. Mentre Sigmund Jung si lanciava eroicamente nel cosmo per la gloria della Repubblica Democratica, mio padre permetteva a una nemica del popolo di farsi succhiare il cervello a furia di scopate. Non tornò mai più a casa. Benché il padre del protagonista del film Goodbye Lenin sia riuscito in qualche modo a oltrepassarlo, Berlino e la Germania, dal 13 agosto 1961 fino al fatidico 9 novembre 1989, sono rimaste rigorosamente divisi in due da un confine. Da una parte i capitalisti e dall'altra i comunisti, da una parte l'Occidente e dall'altra l'Oriente. Una realtà, quella della Repubblica Democratica Tedesca o Germania dell'Est, che ha certamente segnato le vite e le coscienze di una buona fetta di popolazione, spingendola fino al punto di volere dimenticare il proprio passato. E quale rimozione migliore se non quella figurata e anche fisica delle statue dei due diretti responsabili della formulazione della dottrina anticapitalista, gli autori del famoso e famigerato Manifesto del Partito Comunista. Stiamo parlando naturalmente di Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx, Friedrich Engels. Le versioni bronzee di Marx ed Engels hanno campeggiato nella piazza berlinese a loro intitolata dal 1986 fino all'altro ieri e può darsi che non torneranno mai più al loro posto. Ma il loro posto nella storia del pensiero, dal Manifesto del Partito Comunista fino a ben oltre la caduta del muro di Berlino, non lo perderanno tanto facilmente. Yeah. Karl Marx, iniziatore dell'ideologia comunista, è stato senza dubbio uno dei pensatori più importanti degli ultimi due secoli, al di là delle derive e delle influenze positive e negative che il suo pensiero ha prodotto sull'umanità. Una figura così celebre, amata, detestata, studiata, rielaborata, digerita e rigurgitata da essere entrata senza dubbio nell'Olimpo del pop, se così si può dire. Carlo Marx, caro Carlo Marx, come mai sei rimasto lì, caro Carlo Marx? Cosa... Io protesto. Protesti? Sì, perché mi hai condannato. E cosa protesteresti, caro Carlo Marx? Perché cosa hai fatto nella tua vita? E Marx gli dice: vedi, io nella mia vita ho detto che gli uomini sono tutti uguali. E questo, caro Carlo Marx, l'ho detto prima io. Uguale. E poi? E poi ho detto che i ricchi sono degli esseri non giusti e che dovevano dare soldi ai poveri per farli stare meglio. E questo pure, caro Carlo Marx, l'avevo detto prima io. Bravo. E poi? E poi ho detto che gli operai e proletari dovevano lavorare meno e mangiare di più a scapito dei ricchi. E questo pure, caro Carlo Marx, l'avevo detto prima io. Mi sembra che si copi un po' troppo, caro Carlo Marx. E allora Marx gli dice: allora, se condanni me, condanni anche te, perché abbiamo detto le stesse cose. No, caro Carlo Marx, caro copione, perché anche tu hai commesso un errore. E Marx gli fa: e quale? Hai detto che io non c'ero, e invece eccomi qua. Come la mettiamo? Ci sei rimasto male, caro Carlo Marx. E così ti abbiamo condannato. E allora Marx dice: e qual è la condanna? Siccome hai detto che non c'ero, caro Marx, tu farai il portiere. E siccome io ho molto da fare, sono occupato e mi cercano sempre e non voglio essere disturbato, ogni volta che mi cercano tu gli risponderai: mi dispiace, Dio non c'è. Roberto Benigni, calatosi in modo un po' irriverente nei panni di Dio, scherza sui contenuti fondamentali del pensiero marxista. Per comprenderne appieno il senso, è necessario rintracciarne l'origine e ripercorrere da principio le orme del suo principale referente. Karl Marx nasce a Treviri nel mese di maggio del 1818 da genitori di origine ebraica. Il padre tuttavia da qualche tempo si è convertito al protestantesimo per convenienza. Gli risulta impossibile altrimenti esercitare la professione di avvocato. Grazie al lavoro paterno i Marx possono permettersi di vivere in un bel quartiere e come tutti i bambini Karl stringe amicizia con i vicini di casa, i figli del barone von Westphalen. La graziosa Jenny, più grande di lui di 4 anni, un giorno diventerà sua moglie. Il barone von Westphalen, aristocratico dalle idee progressiste, esercita su Carlo un'intensa influenza spirituale. Gli legge Omero, Shakespeare, lo spinge verso una visione complessa e critica del mondo. Un insegnamento che per Carl si rivelerà fondamentale, anche nella scelta del futuro percorso di studi, come ricorda sua figlia Eleanor. Seguì la normale routine scolastica, poi si iscrisse all'università di Bonn e Berlino, dove per compiacere suo padre studiò legge e per compiacere se stesso studiò storia e filosofia. Conseguita la laurea nel 1841, Karl snobba la professione legale e si indirizza verso il naturale compimento dei suoi studi storico-filosofici. È in cerca di una collaborazione presso l'università di Jena, di un posto da assistente che magari un giorno potrebbe trasformarsi in una cattedra. Ma appare chiaro fin da principio che qualsiasi sistemazione in ambito universitario a uno come Karl Marx è preclusa. Il governo prussiano, proprio in quegli anni, aveva stabilito una sorta di cordone sanitario per tenere lontani dalle istituzioni gli individui che osassero mettere in discussione i fondamenti cristiano-tradizionali della società, o più in generale, il sistema sociale esistente. Il temperamento irruente e focoso che ha caratterizzato il giovane Karl fin dall'infanzia si è acuito nel corso degli anni di studio, corroborato dalla forza del sapere. La politica, ormai, gli scorre nelle vene. Le frequentazioni universitarie dei circoli della sinistra hegeliana lo hanno portato ad assumere posizioni radicali su svariati aspetti della vita socio-culturale, arrivando a vagheggiare spesso la lotta rivoluzionaria come unico espediente. Karl desidera un mondo migliore, vorrebbe intervenire sulla realtà e sulle condizioni in cui versano il suo paese e il mondo intero. Il primo modo che trova per rendersi utile alla società è intraprendere la carriera giornalistica. La sua vis polemica sarà al servizio della pagina scritta e dei lettori che ne trarranno beneficio. È così che diventa prima collaboratore e poi caporedattore della Rheinische Zeitung, la Gazzetta Renana, giornale tedesco finanziato da industriali di tendenza liberale. Il suo primo articolo, incentrato sulla questione della censura e della libertà di stampa, mostra già tutta la verve che lo caratterizzerà negli anni a venire e che tornerà ad affrontare immancabile in ogni suo scritto. La critica non è una passione del cervello, è il cervello della passione. Non è un coltello anatomico, è un'arma. Il suo oggetto è il suo nemico, che essa non vuole confutare, bensì annientare. Il suo pathos essenziale è l'indignazione. Il suo compito essenziale, la denuncia. Le pagine della Gazzetta Renana sono il primo trampolino che consente a Marx di lanciarsi nella lotta contro ogni forma di disputismo. Non critica solo le grinfie della censura governativa, ma si interessa anche delle condizioni dei lavoratori schiavizzati e vessati dai propri padroni. La pubblicazione sulla Gazzetta di 5 articoli sulle misere condizioni dei viticoltori della Mosella non può non scatenare l'aspra reazione delle autorità prussiane. Un inviato del governo tenta di far ragionare Marx con le buone, invano. L'unico modo per neutralizzare quel caporedattore focoso è destituirlo dal suo incarico o, più drasticamente, sopprimere il suo giornale. Detto o fatto. Conclusasi amaramente l'esperienza della Gazzetta Renana, Marx si ritrova ad essere un semplice dottore in filosofia senza futuro nel suo stesso paese. Nessuno in Germania, infatti, sarebbe più disposto ad affidargli un incarico giornalistico. Ora, oltretutto, Karl non ha più da badare esclusivamente a se stesso. Ha appena sposato la dorata amica d'infanzia Jenny, figlia del barone von Westphalen. La loro Germania ormai non è più il posto giusto in cui restare. Ne avevo abbastanza dell'ipocrisia, dell'ignoranza, dell'autorità brutale, dei nostri salamelecchi e del nostro tergiversare. Il governo mi ha reso la libertà. In Germania non posso più fare niente di nuovo. Qui non farei altro che corrompere me stesso. I coniugi Marx lasciano la Germania nell'autunno del 1943. Inizia così il loro lungo, estenuante e duro percorso di apolidi, di cittadini senza cittadinanza, di fieri sostenitori di idee che risulteranno scomode a turno un po' dappertutto. Prima tappa del loro eterno pellegrinaggio, la splendida, rutilante Parigi della prima metà dell'Ottocento. Adesso ritorni, ora che mi parli, sai che mi perdi. Parigi, Parigi, Parigi, Parigi è lontana, ma oramai ci so arrivare, io la vedo e tra un momento la potrò toccare. Parigi, Parigi, Parigi, Parigi è vicina, è una stella nella sera, dove fuggono i ricordi di una notte scura. La Parigi che accoglie i Marx nell'autunno del 1843 splende in tutto il suo sfarzo. La città è in piena esplosione, la borghesia florida sfoggia le nuove ricchezze conquistate durante il placido regno di Luigi Filippo. Victor Hugo e Honoré de Balzac sono in piena attività. Stendhal è scomparso da poco. Parigi conosce il lusso e il fervore intellettuale, eppure a guardar bene in molti luoghi della città si nasconde la miseria più nera. Nella capitale è confluito nel corso degli ultimi anni un numero elevatissimo di stranieri, esuli, rifugiati politici, diseredati. I Marx, forzati ad abbandonare la Germania, sono in buona compagnia. A Parigi da qualche tempo si è insediata una colonia di più di 10.000 tedeschi, composta da molti intellettuali, moltissimi calzolai e altrettanta manovalanza che trova impiego in diversi settori. La stragrande maggioranza di loro è di fede comunista. Karl Marx, dalle pagine della rivista parigina di cui è condirettore, gli Annali Franco-Tedeschi, torna a valutare criticamente la loro difficile condizione di lavoratori. L'operaio diventa tanto più povero quanto più produce ricchezza. Le teorie elaborate da Marx sul proletariato e sul suo ruolo di emancipatore dell'umanità appaiono improponibili ad alcuni dei suoi collaboratori. Naufragata dunque anche l'avventura agli annali franco-tedeschi, Marx non si perde certo d'animo. Collabora con il periodico Avanti e continua a frequentare assiduamente gli ambienti dei lavoratori francesi, dei quali ammira l'intelligenza, l'energia, l'idealismo. Nei loro incontri la fraternità non è solo un'espressione verbale, ma una verità. E sui loro volti, induriti dal duro lavoro, riluce la nobiltà d'animo. Una visione un po' romantica del proletariato che non lo avrebbe abbandonato mai più. Marx, uomo focoso, cocciuto e totalmente persuaso dall'utopia di poter cambiare il mondo grazie ai suoi scritti e al suo impegno, aspetta solo di incontrare qualcuno che condivida le sue preoccupazioni e urgenze. Marx non lo sospetta, ma quel qualcuno di fatto lo ha già incontrato. Karl Marx e Friedrich Engels hanno già avuto modo di incrociarsi a Colonia qualche anno addietro, alla redazione della Gazzetta Renana, dove anche Engels aveva portato alcuni dei suoi articoli perché venissero pubblicati. Un incontro frettoloso, eppure significativo, se è vero che Engels, qualche tempo più tardi, manda a Marx, neo direttore degli annali franco-tedeschi da poco stabilitosi a Parigi, una dissertazione sulla critica all'economia politica che lo colpisce per la sua attinenza alla realtà. I due quindi si conoscono di fama, si sono annusati, si piacciono. Quando Engels annuncia nel 1944 il suo imminente arrivo a Parigi, Marx è elettrizzato come se dovesse incontrare una spasimante lontana e segreta. I filosofi non spuntano dal terreno come funghi. Essi sono il prodotto del loro tempo. Marx ed Engels, in effetti, sono un prodotto compiuto della società che li ha visti nascere e crescere. Si danno appuntamento un pomeriggio al Café de la Région e tra loro si stabilisce immediatamente quel sentimento di reciproca ammirazione destinato a durare immutato e inscalfibile per decenni. Marx offre ospitalità all'amico nel suo modesto appartamento di Rue Vanneau e nel corso dei 10 giorni successivi nasce e si consolida l'amicizia straordinaria, unica nel suo genere, che di lì a poco porterà alla stesura del manifesto del Partito Comunista. Saturday, from the few I saw today, I took a bet inside the laundrette with the girl from Wallasey. Destini incrociati. Io non so che cos'è un uomo, so solo il suo prezzo. Con queste parole, Bertolt Brecht rileggerà a quasi un secolo di distanza le tematiche e le idee di Karl Marx, figlio dell'Ottocento, portato dalla società in cui è cresciuto, oltre che dal suo naturale temperamento rivoluzionario, a immedesimarsi nelle situazioni più dure, condividendo con gli altri idee ed aspirazioni di rivincita della classe operaia. Condividere le idee, si diceva. Qual è il modo migliore per farlo se non insieme a un amico? Friedrich Engels è la persona giusta per farlo. Il nome di Engels è indissolubilmente legato a quello di Marx. È stata la storia degli ultimi 150 anni ormai a decretarlo. Verrebbe quasi da immaginarsi un ometto un po' scialbo, totalmente offuscato dall'ombra dell'uomo più grande e più famoso che nell'immaginario di tutti è un burbero ed energico gigante con la barba scura. Engels invece è tutt'altro che grigio e insipido. Un bel prussiano, alto, biondo, elegante, disinvolto, brillante, arguto, amante della buona tavola, del buon vino, delle belle donne e capace di esprimere il proprio disappunto in svariate lingue. Engels, dopo tutto, non è poi tanto diverso da Marx. Se è vero che fisicamente non si somigliano affatto, è altrettanto vero che condividono la passione febbrile per la causa dei proletari vessati dalla furia capitalista. Lo schiavo è venduto una volta per sempre. Il proletario, invece, deve vendere se stesso giorno per giorno, ora per ora. Per Marx ed Engels, il capitalismo, efficace da un punto di vista prettamente economico e tecnico, è invece intollerabile sotto il profilo sociale. La nettissima, lacerante frattura fra le classi fa sì che il sistema sia costituito da una classe proletaria succube e da una borghesia capitalista soverchiante. Si tratta in sostanza di una schiera di lavoratori indifesi totalmente in balia dei propri datori di lavoro. Uomini, donne, bambini, intere famiglie sfruttate, poi stipate in tuguri maleodoranti e intollerabili persino a una bestia. democrazia. Un sistema, quello delle classi, che si è evoluto nel corso del tempo, aggravandosi con l'avvento della rivoluzione industriale. Ed è proprio contro di esso che insorgono i nuovi teorici della riscossa proletaria, parola di Friedrich Engels. Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Il comunismo è un sistema sociale secondo cui i beni del mondo dovrebbero essere goduti in comune da tutti. Sembrerebbe tanto semplice. Eppure è una delle idee più utopistiche e difficilmente applicabili che abbiano mai attraversato l'intera storia del pensiero. Un'ideologia che è nata non da un proletario, bensì dal figlio prediletto di un industriale capitalista. Friedrich Engels nasce il 28 novembre 1820 a Barmen, in Germania. Il padre è un imprenditore che possiede alcune filande di cotone e segue la dottrina religiosa pietista, contraria alla vita mondana e alla diffusione della cultura. Due elementi apparentemente distinti, quelli dell'imprenditoria e del morboso attaccamento agli insegnamenti religiosi, che provocheranno in Engels simili reazioni di rigetto. Friedrich inizia a lavorare all'interno dell'ufficio commerciale dell'impresa paterna ed è proprio in questa sede che il giovane inizia ad appassionarsi alla politica. La condizione degli operai è proprio sotto i suoi occhi tutto il giorno, tutti i giorni. Da qui a collaborare con il Telegraph für Deutschland, scrivendo articoli che raccontano le condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche tedesche, il passo è molto breve. Nel 1842, terminata la leva militare obbligatoria, Engels si trasferisce in Inghilterra, a Manchester, per lavorare nell'azienda Herman & Engels, di cui il padre è diventato comproprietario. Durante il soggiorno inglese ha modo di prendere ancora più coscienza delle difficili condizioni di vita degli operai, induriti dal lavoro massacrante e costretti a vivere in condizioni di estrema indigenza per alimentare lo splendido tenore di vita dei propri padroni. Questo, secondo Engels, è un paradosso inaccettabile, così come lo è per Marx. Il denaro, in quanto possiede la proprietà di comprare tutto, di appropriarsi di tutti gli oggetti, è dunque l'oggetto in senso eminente. L'universalità della sua proprietà costituisce l'onnipotenza del suo essere. Esso è considerato quindi come ente onnipotente. L'onnipotente denaro è l'elemento fondante che spinge i capitalisti a sfruttare i più deboli fornendo loro in cambio fatue promesse fatte a loro volta di denaro, ma in quantità decisamente minore. I cotonifici del padre di Engels, oltretutto, si trovano proprio a Manchester, che a metà dell'Ottocento è la più grande città industriale d'Europa, piena di fabbriche, dove un terzo degli operai è costituito da ragazzi. Il giovane Engels non può restare indifferente e anzi il drammatico approccio con quella realtà lo spinge a lasciare la Herman & Engels per dedicarsi appieno all'attività di giornalista. Un'oncia di azione vale quanto una tonnellata di teoria. Scrivere puntando il dito contro l'insostenibile condizione degli operai inglesi, tedeschi e europei non sarà certo come prendere il loro posto in fabbrica, ma è già qualcosa. L'incontro parigino con Marx, oltretutto, accresce in Engels la sete di denuncia. Marx è uno dei suoi miti fin dalla volta in cui, qualche anno addietro, lo ha incontrato nella redazione di Colonia della Gazzetta Renana. Condividere con lui le proprie idee, i propri articoli è come un sogno che diventa realtà. La pubblicazione nel 1945 della situazione della classe operaia in Inghilterra, la prima grande opera del marxismo scritta da Friedrich Engels, non sarebbe mai stata possibile senza l'apporto umano di colui che del marxismo è l'ispiratore materiale e nominale, Karl Marx. E questo è solo l'inizio. Nel gennaio del 1945 Karl Marx e la sua famiglia ricevono un'ordinanza firmata dal ministro degli interni francese. Devono immediatamente lasciare il paese. Le idee sovversive di Marx, le stesse che qualche anno prima lo avevano costretto ad abbandonare la Germania per la Francia, ora lo spingono a cercare rifugio altrove. La scelta ricade su Bruxelles, dove negli anni immediatamente successivi Marx inizia la stesura del libro che è destinato a diventare uno dei testi più celebri della modernità. Il mondo e l'ordine delle cose sono in subbuglio, al di sotto della crosta di normalità. Marx è tra i primi ad accorgersene. Se anche l'atmosfera in cui viviamo grava su ciascuno di noi con il peso di 20.000 libbre, forse lo percepiamo. né più né meno di quanto la società europea, prima del 1848, percepisse l'atmosfera rivoluzionaria che la circondava e premeva da tutte le parti. Qualcuno addirittura l'ha definito la Bibbia dei tempi moderni. Di certo, il manifesto del Partito Comunista, scritto a quattro mani da Karl Marx e Friedrich Engels, ha cambiato la vita nel bene e nel male a milioni di persone. Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro. Il Papa, lo Zar, Metternich, Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi. È ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del partito stesso. 9.600 parole distribuite in una trentina di pagine, 500 copie per la prima edizione. Uno scritto vibrante, steso con tanta violenza e fiamma polemica che non risulta difficile immaginare lo sgomento dei primi lettori né l'impatto che poi nella storia ha avuto su milioni di uomini e donne. Vi si parla, tra le altre cose, di esproprio della proprietà fondiaria, di abolizione del diritto d'eredità, di centralizzazione del credito nelle mani dello Stato, di educazione pubblica gratuita di tutti i ragazzi, unita all'abolizione del lavoro minorile nelle fabbriche. Pensieri rivoluzionari per l'epoca in cui sono stati formulati. Pensieri nati dalle menti di due figli di una società vogliosa ed estremamente bisognosa di cambiamento, sull'orlo del fatidico 48. Destini incrociati. Chi ha letto Marx è diventato comunista. Chi l'ha capito è diventato liberale. Parola di Ronald Reagan, ex presidente, rigorosamente repubblicano, degli Stati Uniti d'America. Non esattamente un comunista. Eppure persino lui ha saputo riconoscere nell'ideologia marxista uno slancio doveroso e un'attenzione verso tematiche che per troppo tempo erano state dominio di pochi. Quando fu pubblicato, noi non avremmo potuto chiamarlo manifesto socialista. Nel 1847, con la parola socialista, si intendevano due tipi di persone. Da una parte i seguaci dei vari sistemi utopistici, che già allora si erano rinsecchiti in pure semplici sette. Dall'altra parte i molteplici ciarlatani sociali che volevano eliminare con le loro varie panacee e con ogni sorta di toppe gli inconvenienti sociali senza fare il più piccolo male né al capitale né al profitto. In entrambi i casi è gente che stava fuori dal movimento operaio e cercava anzi appoggio fra le classi colte. Insomma, nel 1847 socialismo significava un movimento di borghesi, comunismo un movimento di operai. Il socialismo, almeno nel vecchio continente, era ammesso nella buona società, mentre il comunismo era proprio il contrario. Nemmeno Marx ed Engels sono figli, né tantomeno fanno parte della classe operaia. A dirla tutta, Engels, dopo il suo esordio giornalistico al di là della stesura del manifesto, è tornato all'ovile in qualità di commerciante dei prodotti del cotonificio paterno. Engels non è affatto privo di senso pratico. Non riuscendo a mantenersi con i proventi del giornalismo, capisce che è meglio lavorare altrove per finanziare le proprie idee rivoluzionarie. Chi invece se la passa male, da un punto di vista finanziario e geografico, è il suo carissimo compagno Marx. L'attività di Marx, infatti, comincia a preoccupare anche le autorità del Belgio, che decidono di espellerlo. La situazione per i due amici si fa complessa. Nessuno li vuole. Tutti temono le idee rivoluzionarie espresse a chiare lettere nel manifesto. Marx ed Engels tornano momentaneamente in Germania, dove fondano la Nuova Gazzetta Renana, giornale che appoggia apertamente la rivoluzione parigina del 1848, evento di importanza capitale nella storia d'Europa. La tranquillità, tuttavia, dura ben poco. Giusto un paio d'anni di attività politica e di scritti infiammati. E nel 1850 Marx viene nuovamente espulso dalla Germania. E questo è il prezzo dell'essere radicali nelle proprie scelte ed opinioni. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice per l'uomo è l'uomo stesso. Dopo un breve soggiorno a Parigi, i Marx, seguiti dal fedelissimo Engels, partono alla volta di Londra, città non ancora toccata dal frenetico e forzato pellegrinaggio della polide Marx. Qui i Marx, esattamente come altrove, versano in durissime condizioni economiche. Mantenere una famiglia e dei figli, se la tua professione è quella del filosofo e pensatore bistrattato, non è affatto uno scherzo. Il mondo moderno lascia insoddisfatti, o dove appare soddisfatto di se stesso, è volgare. I soldi saranno anche volgari, ma danno da mangiare. Con la sola forza delle sue idee, Marx non può certo sfamare le bocche di chi gli è più caro. Open sky, the way the pain, the sense of you is bliss. Hungry eyes, stare me, I know, don't care! Le difficili condizioni finanziarie dei Marx non impediscono a Karl di continuare a lavorare in maniera febbrile sui suoi scritti. La moglie Jenny, erede dei baroni von Westphalen, è disposta a impegnare l'argenteria, i mobili e persino i propri abiti se si tratta di sostenere la causa del marito e del proletariato. La scrittura del celeberrimo Capitale richiederà a Marx oltre un decennio di lavoro lungo ed estenuante, parzialmente ricompensato dalla pubblicazione del primo volume nel 1867. Un trattato di politica economica fondamentale per comprendere appieno l'ideologia abbozzata nel manifesto. Ce ne parla il giovane filosofo Diego Fusaro. Che Marx è stato essenzialmente due cose che la società capitalistica non può tollerare. In primo luogo è stato, anzi la sua filosofia è stata la più seducente promessa di felicità di cui la modernità sia stata capace. Una felicità che i Marx non vivono sulla propria pelle. La loro situazione rimane critica per lunghissimi anni, sino a quando Engels, venduta la sua parte di proprietà della fabbrica di Manchester, si impegna a corrispondere all'amico una rendita fissa. Engels, nel corso dei decenni, ha più volte impedito a Marx e ai suoi figli di morire di stenti. Ed è sempre Engels che, dopo la morte dell'eterno amico, si prenderà cura della pubblicazione postuma del secondo e terzo volume del Capitale. Il 14 marzo, alle 2:45 pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. L'avevamo lasciato solo da appena 2 minuti e al nostro ritorno l'abbiamo trovato tranquillamente addormentato nella sua poltrona. Addormentato per sempre. Non è possibile misurare la gravità della perdita che questa morte rappresenta per il proletariato militante d'Europa ed America, nonché per la scienza storica. Non si tarderà a sentire il vuoto lasciato dalla scomparsa di questo titano. Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana, e cioè il fatto elementare, finora nascosto sotto l'orpello ideologico, che gli uomini devono innanzitutto mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi prima di occuparsi di politica, di scienza, d'arte, di religione, eccetera. Se è vero che George Orwell liquiderà magistralmente l'ideologia comunista mettendo in bocca a un maiale la massima «Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri», è altrettanto vero che in Marx, nell'uomo e nella sua fiera ideologia, c'è molta più umanità di quella che molti riescono appena a intravedere. C'è perlomeno tutta l'umanità che può sgorgare dallo struggente elogio funebre di un amico, del suo migliore amico.